bravo e dovrei essere ancora a posto poi. Sì, fai quell'accorgimento che ti ho detto io e poi è tutto ok, comunque c'è già 9.40 qua, quindi no, non penso ci siano problemi. Ma la voglio anche un po' ruotare, capito, Claudio? Sì, ruota il direttore, anziché verso Stintino, un pochino più verso Sassari, come ce l'ho io praticamente, dai. Ehi, AK, come fa un po' di bel tempo? Domani c'è un altro turno di sera, poi l'1 e il 2, sono giorni di festa, ma se il 2 fa tempo buono salgo e dovrei riuscire a sistemare tutto. Avanti, ti vuole entrare? Eh? Sono io, sto parlando io, non sapevo se stai parlando ancora Carlo. Ah, si fa certo. Ok, perché non lo senti più a Carlo? No, l'ho perso quando mi ha detto che stavano entrando in Rasmus vicinanza di Sassari, che voleva andare a prendere la figlia. Sì, io no, qua già arrivo a forte. Non c'è problema, dall'Alghero l'ho ascoltato, da quando è uscito l'Alghero sempre lo tiravo fuori, non ci sono problemi. Ok, vediamo Claudio, torni conto, lo di nuovo il mic a te. Sono qua, no, mi ha un po' girato le balle sta cosa, allucinante. Poi avevi detto sceriffo senza pistola e uno già l'ha finito, ma vabbè, pazienza, devo già mettere. Si tiene passata la garante di fare da fiora da me di tinditi. Avanti, doppio rum. Ah, con la bruscetta qui sì. Boh, hai visto quanto riesco bene al camper? Cosa? Hai visto quanto vado bene al camper? Ti ho sentito un paio di volte, sì, vai bene. E oggi? Sì, dimmi. Ma l'hai fatta quell'operazione con quella piastra? No, la piastra originale ancora. No, ma la faccio quando riesco a incollarla. Devo trovare uno che riesca a incollarla. Cioè, devo trovare un Sikaflex. Ma lo faccio al tempo buono, perché sennò adesso piove un casino. Ah, il materiale già te lo dico io, mi chiami domani, così me lo ricordo, te lo mando via WhatsApp, poliuretanico 3M, tizio di colore, prendilo bianco così fai se buccioli appena appena fuori, e quella è una bomba, usano i colori longheroni dalle macchine, fatti il conto. Va bene. E che lo faccio? Se metto quella piastra diventa una bomba, va benissimo. Adesso la stessa antenna, perfetta. Ma quello che ho preso io da adesso è quello lì, vabbè. No, ho capito, sei detto quello che mi hai fatto prendere a me, quel mastice che ho preso da Desole per i pluviali, quello che si può incollare anche se sta piovendo. No, quella è un'altra cosa, no, non stiamo parlando, io sto parlando di roba per carrozzeria, quello che hai usato tu e per edilizia è un'altra cosa. No, quello che lì è la trema del topo, perché addirittura incollano i longheroni sul passaruota, ci sono delle macchine, non dico i parafanghi sono, non ne sta più incollando nessuno, però sui longheroni dove c'è una parte strutturale, torsioni eccetera, una bomba eccellente, io faccio delle cose di incollaggi allucinanti, anche sigillante, come sigillante nel bagno, perché c'avevo un tubo dello scarico dietro, siccome era di quelli saldati, dovevo demolirle tutto per metterlo, l'ho preso, pulito bene, asciugato col fono, gliel'ho messo per non perdere più. Sigillature, vabbè, comunque non c'è problema. Adesso aspetto un po' il tempo buono, poi perché devo levare la piastra originale. Dall'altro non riuscivo a uscire perché usciva con 2 watt, proprio questo esce con un po' più di watt. Ho cambiato l'apparato. Sì, vediamo Carlo dove è arrivato. Io sono dentro Sassari adesso, corso Trinità. Allora Claudio, ti ascolto, Claudio. Doppio rum ti ascolta meglio di tutti i 9, sì, da me. Sì, a passo da Viale Umberto stasera e non faccio via Milano, che devo prendere mia figlia che mi ha chiesto un passaggio. No, qua arriva bene, arriva più di 9 qua. Sono davanti al mercato Civic. 9, 5, 6, 9, vabbè, con QSB, ma comunque ti ascolto bene, non ci sono problemi. Ehi, Acla, tu che c'è un po' di traffico qua. Ehi, stai attento, non ti devi sbattere per lui. Ok, Gianni, a te il mic. Quella è una cosa, bisogna stare molto attenti. Col traffico che c'è in giro, subisci tu 5 minuti perché stamattina sono andato al banco, ma erano tutti quanti fuori servizio. Fidatevi voi di tenere sotto in banca. Ah, io ho un bel gruzzoletto già a casa, ho messo in cassaforte, intanto siamo a casa, a Gita Landettorra, un dite di nato. Anche l'altra volta è capitato a me, mi serviva urgente, dovevo pagare i mulattori. Cazzo, sono andato, Banco Sardegna in tilt, la Banca Intesa via Carlo Felice in tilt, cazzo vuoi dove dici a punta di manicomio a prevale di là, allora ne ho preso un po' e me le sono tenute a casa, c'è la biglia al culo. Ma tu lo sapevi che hanno aperto una filiale di Apronizzè? Della Banca Intesa? È certo che sì. Io non lo sapevo, perché stamattina sono andato lì, questa ragazza ha detto, ma prova di Apronizzè, magari lì funziona. Sì, mi sarà almeno 25 anni già. Non lo sapevo. Ehi, cazzo, c'è da parecchio. Io sono sempre in Piazza d'Italia, però tutte le operazioni le faccio in via Carlo Felice. L'unica cosa che non posso prendere è il carnet di assegni. Devo andare per forza in Piazza d'Italia. Capito? Ma quando mi sono trasferito qua me ne ho preso due per pagare le cose che dovevo pagare, materiali e balle varie, e ne ho ancora. Però tutte le operazioni le faccio via Carlo Felice già, non c'è problema. Va bene, avanti Eugenio. Capito che hai soldi, le operazioni qua, c'è un bel gruzzo, oia, posso andare in giro a dire che ti conosco, Ocla, con un amico che c'hai soldi, cosa vedo? Dove si tratta? Soldi, io me li ho lavorati come te, solo che adesso sono aumentati perché ho anche venduto la casa, quindi ne ho abbastanza da potermi giostrare tranquillamente senza problemi. Avanti, break. Sì, benissimo, segnale è sempre il tuo, 9 più 40, radio 5 è perfetta. Vuoi farci la cosa che hai messo tra pipa? Caro Claudio, stiamo parlando in due. Occasionalmente riprendi, Roberto. Aspetta che forse ha parlato Eugenio, oggi è tu. Far citta la cosa che il tabacco che ha messo dentro la pipa. Sentito, ecco, cosa ti ha detto Eugenio, sei far citta. No, se ha farcito il tabacco. Ah, se ha farcito il tabacco, boh, non lo so. Tabacco farcito ti hai fumato, Eugenio, Claudio. Cappa, quello per pipa, quello aromatizzato dolce, Claudio, in questo tabacco, l'ordinato di stretto di cavallo, cazzo che miele. Quando la c'è, non sono un fumatore in capito, siccome ho comprato questa pipa sul sito in internet, non passi roba, aspetta. Hai le piccoline molto raffinate, e capito preso anche il tabacco, che ho pagato mi sa quanti 6 euro credo, in questo sito dell'estero, della Slovenia, e mi hanno matizzato al miele questo tabacco. Non so se c'è Eugenio mi sta ascoltando, mi prendi Eugenio. E oggi, Eugenio, fuggi tu. Chi è che tocca? No, tocca a me, io vi saluto, dai, me ne vado dall'altra parte e iniziamo a preparare la cena. Ciao Gianni, ciao Eugenio, ciao Claudio, saluti a casa, ci aggiorniamo domani se coincide. E ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, riprendi tu, roba e fai girare. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Claudio, buonanotte, buona carica. Avanti, ciao capo, tutto là. Io rimango ancora un pochettino, poi mangio qualcosa, poi se ne voglio dare ritorno, se no pazienza. Ok, aspetta se c'è Carlo, se c'è ancora. Ora, fuggi Roberto. Aspetta, volevo far riprendere Eugenio. Eugenio è fuggito. Claudio Di Muro, sono avanti a te. Sì, questo è il grazie per le maniche, Roberto, ti saluto a Parchero, allora mi ha passato in QRT. Ciao Claudio, là, ci sentiamo domani sera, se ti voglio, se no la faccio già la destra gli auguri di nuovo. Capito, ti fa un altro, buone feste, capito, hai la te e la tua famiglia e ci sentiamo nel corso di vita, e se capita, e mi ha fatto piacere, grazie del QSO, e cosa volevo dire altro, sì, non so se Carlo mi sta ascoltando, Roberto, io non riesco a tirarlo fuori, probabilmente perché dalla macchina, poi le mani sono una negativa per me, però ci sono delle cose che si quando facciamo sento, e non so, provo a rimandarlo avanti, se mi sta ascoltando, riprendi Carlo, se mi ascolti. Carlo, l'hai ascoltato a Muros? Non ti ha sentito Claudio, hai sentito? Sì, non bene, anche io lo sento, perché sicuramente è una zona favorevole, capito? E non so neanche se è il punto dove si trova, dove sta modulando, neanche il punto si trova con la macchina. sentito di lui, ci sono un po' di tempo che non lo attacco. Mi sa che dopo, se entro stanotte, lo attacco, lo faccio andare, dai. Quello è comodo, c'ha il microfono col capo molto lungo, sarà 2 metri il capo. E posso anche coricarmi e modulare. C'hai lui se tu coso, Claudio? Sì, lo puoi, 639, ne avevo anche uno stazione in parte, c'era il papo, era adatto a dove lo chiusi, c'era quello che era bellissimo, era quello che era stato andato. No, questo che ho io è uguale a questo che tu usano adesso, e non so se ce ne presenti, il software camp PS340PX che sto usando adesso, e ho anche lui, sì che è preciso, 40 canali, con le bande laterali, tra le sequenze del corporato, e praticamente la stessa radio, però quella è a 40 canali, che è della Rossi, e quella è nuova di Zecca, poi anche nuova di quella, quella è di questa, sto usando quella di Luz Garage, proprio è perfettamente funzionante, quindi si capisce ciò, e praticamente non anche i premi. No, io lui se c'ho la stazione base, adesso l'ho tolto dalla stazione, l'ho messo da parte perché tanto non lo stavo utilizzando, ma è nuovo fiammante, il mio è proprio solo, vedete, che sembra uscendo da vetrina proprio, ma stavo pensando di venderlo o scambiare con qualcosa che mi interessi, perché tanto è inutile tenerlo se non lo usi. Mi sto tenendo il patch e gli altri quanti ne ho base? 1, 2. Altri 2 ne ho base, con gli altri me li tengo, dai. Il patch è perché mi piace come modulazione, il multicom perché quello è eccellente come ricezione. Poi c'ho l'altro base, quello nero inclinato, mi pare ce l'hai anche tu, coso, come si chiama, Claudio, ce lo vorresti avere anche tu, quelli me li tengo. Però il Ruiz sinceramente non so che farmene, forse faccio scambio oppure me lo vendo. Ma sempre No, non le voglio baracchine, no, di qualche altra cosa che mi interessa. Io adesso mi ce lo sto dando, domani devo dare un Lafayette a voi, bello, tipo il Texas, sono uguali, devo fare uno scambio, anche se magari ci posso anche perdere, perché questa vale di più, però tanto non lo stavo utilizzando, è fermo, mi l'ho provato un'oretta fa con Claudio, ero senza neanche antenna, mi ha ascoltato, mi ha detto che la modulazione stava andando benissimo, c'ha l'attacco laterale per il microfono, tutto nero, è nuovo, mi l'avevo preso con tanta altra roba diversi anni fa, tra cui mi ha dato anche questo, ci aveva messo in mezzo questo, ma funziona perfettamente. Sì, scusa un attimo Gianni, di quelli la Lafayette e Texas, di quelli Hawaii, non che mi interessano molto, perché sono cagatine, quelle radio, tipo la 48, non mi interessano, perché c'avevo anche il tornado, di quelle radio di super, tanti di questi, non io più, praticamente sono usato solo roba, ho capito, e sto cercando sempre roba mancante alla collezione, tipo questo Ruiz, dicendo tu, mi radio così, stazione base, tipo il super console della SPA, anche se riesco a trovarlo, il Trinidad, quella radio lì, e sto cercando roba di questo tipo, e poi si può fare anche qualche scambio, anche con qualche altra tipologia di radio, e che dicendo tu non c'è problema, per quelle sono belle cose, purtroppo devo trovarle, che è difficile trovarle, quella radio lì, capito? Riprendi Gianni. Il mio voice è 642. Non ti ho capito, c'è stata una sovrammodulazione, cosa mi hai chiesto già? Ho letto, il mio è 642 il Ruiz. Sì, quello è un bel apparato, hai capito, hai. E poi ha uno, Antonello Giosi, Barracuda, che è bellissimo, perché l'ha dato mio padre, e quello se l'ha tutto fatto rifare a nuovo, è un bel radio, questo è bellissimo, ma ne dubito che l'ha dato, Antonello. Riprendi Roberto. Il mio è 1625, 1-625, c'ha gli strumenti verdi, non è quello con l'orologio, l'orologio è il patch, però se lo vedi è nuovo, c'ha le fiancatine in legno, è bello, bello bello come estetica, funzionamento, l'ho acceso un paio di volte, c'ho il suo microfono originale, funziona a 110, infatti c'ho il trasformatore esterno, è nuovo l'apparecchio. Sì, dopo mandami una foto se ti viene bene dopo, così me lo guardo, perché non ce l'ho presente, capito? Capito, io ne ho molti di questi vintage che sono di babbo, ma non li diamo, che sto sempre cercando a comprarli, mi capita anche me li sentiamo con la Nicola, perché Nicola me li regala molte volte le radio, e capito, ho anche l'SPE, il primo console, l'SPE 8CP, capito, è il primo console, il primo che hanno fatto, che me l'ha dato il barbiero, che era della buona anima di uccidi di Sassari, che lo nomino, capito, è bellissimo, perfettamente funzionante, sulle parti laterali, 20-30 canali, Eugenio, ci sei ancora? Era 9:20, quasi il tuo segnale aveva. Eugenio forse si è allontanato, vediamo se era Carlo magari. Robetti, sì, adesso sentivo anche Claudio da Muros, non sono salito, ma sono quasi vicino a casa. Sto per rientrare, magari sono dopo da casa. Ok, dai. Ok, davanti Gianni doppio dopo. Ecco, questo qua. Chi è che ha fischiato? Sono io, mi sono dimenticato la radio accesa. Questo è Luis, Robetti. Sì, sì, dai, c'è bene. Con che microfono? A starti. Io Luis l'ho provato solo con il microfono suo originale perché c'ha le connessioni diverse. Non ho avuto modo di provarlo col Turner o cosa del genere. Sono sicuro se con la radio gli metti un bel microfono funziona anche una meraviglia. Questo è un bel microfono. Sì, sì, no, no, sto dicendo. Non l'ho potuto rivalutare, nel senso, quando c'è proprio il microfono suo originale, la Palmo, rispetto a un amplificato, la radio è molto più debole, eccetera, eccetera. A me quando me l'hanno mandato il microfono suo originale aveva un filo staccato, e poi l'ho ricollegato e però ho voluto metterli questo, perché con quello là, sì, aveva una bella radio, ma era sempre una radio normale, dai. Antonio, ma Claudio, come mi ascolti con lui? Campa, Santiago 6, Santiago 6, la radio è comunque buonissima, è meglio, sto dando una bella modulazione, visto che già si è anche bene, già si è bene, complimenti, quella è una bella radio, quella che sto usando. Non penso, già ti volevo dire, mandami un apposto poi di questo Luis, che provo a chiederlo a Nicola, magari gli interessa, magari così lo prende lui, magari non so cosa stai cercando, magari stai cercando roba da cosa radiomatoriale, una volta, di quella roba di mare ti può interessare, lo convinco a prenderlo, roba, e poi me lo faccio rigirare a me, perché Nicola ha sempre qualche cosa che interessa, capito, qua a casa, e magari, capito, ti riesco ad affibbiarlo a lui, poi lui me lo rigira a me, capito, mandami una foto, roba di quelli. Sì, sì, è proprio nuovo, dopo te la mando, c'ho il suo alimentatore, trasformatore da 220 a 110, nuovo, quell'attacco americano, eccetera, eccetera, perché il mio è originale americano, non è per il mercato europeo. Il tuo già ne ha quanti, a 220 o a 110? A 220. No, no, il mio, tu quindi c'hai già per il mercato europeo, il mio è proprio originale americano, per il mercato americano a 110 volt. Il patch invece funziona a 220 e più c'ha la possibilità di funzionare a 12 volt, c'ha un cavo di predisposizione, ma io ho visto la valutazione di un patch negli Stati Uniti, quanto li vendono, vi spaventate, $900 pure li vendono, è molto ricercato perché non ne hanno fatto molti di quel patch che c'ho io, noi ce ne ho visto tanti, però il patch quando ho guardato per caso su eBay eccetera, erano tutti a prezzi allucinanti, infatti ho detto cacchio, se mi dai $500, €500 glielo do subito, glielo spedisco pure. Sì, non, io non so se gli impieghi il patch ce li ho tutti. Lo so che invito quello che mi ha dato il parriero, che è raro ce l'ha trovare, quello non è cosa di rosa, un condensatore, quello devo cambiare un condensatore, gli abbiamo messo anche l'illuminazione originale, proprio bianca, perché aveva l'illuminazione azzurra e proprio l'ha tutto rivisionato, la visione esce bene, però c'ha un problema di rosio, c'ha un condensatore da sostituire, che ce l'ho anche in garage, però anche se non ha voglia di mettermi in mano, capito? E ce li ho tutti e quei pacchi di ciò, che la versione quella da barra di quel patch è perfettamente funzionante, poi abbiamo il patch 123, il 100 alt, quindi il Papo Grosso, ce li ha tutti tranne quello stazione base che hai tu, capito? Riprendi già. E vabbè, ma questi apparecchi qua un po' di ronzio ce l'hanno sempre. Il Royce per dire un pochino lo fa, non so se voi lo sentite, però io lo sento un po' di ronzio quando la sento. Sì, appena appena si sente, è impercettibile, però non è fortissimo. No, no, il patch è mio, adesso vabbè sono da molto che non lo uso, ma me l'avete sempre vantato col Turner più 3 e tutti mi dicevano che aveva una modulazione bellissima. L'unico problema è che l'eccezione è molto rumoroso, se c'è qualcuno vicino devi attenuare, sennò vai subito in saturazione. È tutto in alluminio, alluminio, sembra un amplificatore di quelli vintage, tutto il frontale in alluminio presso fuso, i pomellini in alluminio, c'ha l'orologio e i canali in rosso, c'ha le bande laterali e il coso. Lui se non ce l'ha le bande laterali, e tre strumenti, c'ha il modulometro, il come cavolo si chiama, quello la potenza, il wattmetro e come si chiama, l'SVR, il rosmetro, ti segna anche la cosa. No, è bellino, diciamo, per chi piace il genere, naturalmente non è un granché di cose, però il tanto suo lo fa. È una radio secondo me anni 70, l'avevo preso tramite Sparviero, me l'aveva fatto prendere lui la prima radio, l'avevamo guardato su internet, su eBay, l'ho pagato allora a 110 euro, stiamo parlando nel 2005, anche se il mio numero preferito, numero uno, è sempre il Multicom 497, quello non ce n'è per nessuno, quello cacchio, neanche a regalo, cioè neanche se me lo pagano, a meno che vabbè non fanno una cifra irripetibile, però se mi dicono di voi 200 euro ti do un Saturnecco, no niente, mi tengo quello. Oh, vabbè. Sentire, dai. Scusate, no Robert, stavo chiedendo se va bene la radio perché devo aver toccato qualcosa quando volevo l'ago muoversi, com'è? Benissimo, pulita, perfetta. Poco fa la parte mia eri troppo forte, ti sentivo troppo potente, però così è bella. Sì, questo è Sparviero, anche da me va bene, però sì, 9+3, sempre più alto e freddo. Sì, vabbè, sto andando con 430 a minima potenza, no, non c'è problema. Così dovrei essere il segnale che ho sempre, però lo metto così. Eccolo qua. Va bene, dai, ciao Gianni, allora stanno a portare il cane e ci sentiamo. Ok, qua ancora non è pronto, quindi sono rientrato. Avanti, Claudio, riprendi. Negli Stati Uniti non meno di 900 dollari, che sarebbero circa 800 euro, lo vendono a livello di apparati HF, l'8193, faccio 8193, perfettamente funzionante il mio, c'ha le bande laterali, funziona anche bene come funzioni tutti i coso, i clarifer, il cambio canali, l'orologio, il timer, funziona tutto, non c'ha nessun difetto con la radio, infatti no, non la do, perché non ricordo, da parte è stata una questione con Claudio, se si ricorda, l'ha fatta prendere lui, ha detto bigliare al volo, e infatti questa me la tengo, come mi terrò sempre il Multicom, sono le due radio che sono affezionato, e poi la LAN 48 naturalmente, perché è stato il regalo di un amico, quello mio nuovo fiammante, mai toccato, mai manomesso, e poi c'ho l'altro, me lo tengo perché non dà fastidio a nessuno, e lui sì, sinceramente, anche se è bello, non posso dire niente, non me ne voglio nulla, è una cosa che non mi serve, se mai qualcuno mi offre qualcosa che mi interessa, facciamo uno scambio. Funzionanti, ma non li do. Il DAC è possono offrire qualsiasi tipo di cifra, non uscirà mai da qua. Ok, vabbè, comunque, tienitelo, roba è quello, e lascialo stare com'è, non c'è problema, tanto, cosa ne fai, lo dai e poi cosa prendi, non prendi niente. Avanti, riprendi, roba. Come lo stesso a qualunque cifra, ma che non ti offrono una cifra spropositata, cioè quel ricevitore allora era il topo della gamma della Grundig, che ha diciamo, 14 gamme o 16 bande, che è una cosa eccellente, forse l'avete visto, Claudio già l'ha visto, ne ho due di quelli, quello è un regalo di una persona che ci tengo troppo, molto affezionato, non lo do per niente, ma se vedi le valutazioni di quello lì ti spaventi lo stesso, il satellite 3004 Pro della Grundig, era il topo, c'è anche la banda laterale quello lì, sembra un radione però molto più grande, con i maniglioni a grande, ne ho due, ne ho preso uno che me l'hanno venduto come non funzionante, però era niente di importante perché quelli hanno sbagliato, anziché alimentarla, era impostato a 110 e l'hanno messo a 220, è partito un dio, l'ho sostituito immediatamente, lo stesso la bomba, ma c'hanno una ricezione, io non ho mai visto un apparato ricevitore a livelli di quello, c'hanno anche la larghezza di banda regolabile, i filtri e cose, sto dicendo dentro casa, con l'antenna della Corsica, con la radio della Corsica su 93 che con l'ICR 7000 ho grandissima difficoltà a riceverla, con l'antenna sollevata e orientata sono riuscito a riceverlo, fatti conto la sensibilità di questo apparato. Sì, questo è vero, bene, prendo io, sì, con la radio della Corsica ci sono riuscito anche a riceverle, però se non hai l'apparato nuovo, con l'antenna non lo ricevi, è come stai dicendo tu, capite cosa volevo dire, a Parchero, sì, per parlare di Pier Simpson, che la non sarà mai più visto quello che è venuto in garage, con papà ci abbiamo Pier Simpson, vecchissimo, guardia 23 di modello valvolare, 23 canali, e quella era bellissima, capito, che la devo fare galanta, come si chiama, Beta Verde, abbiamo quella radio, insieme ad altre radio, che ha dato anche, quella, la sai, praticamente funzionante, lì è rarissima, penso che sia degli anni 60, di primi anni 60, quella radio, e poi c'ho anche quella in carne che ci ha dato tu, che quello non si tocca, è perfettamente funzionante, capito, è come il Compact 25 di Pro, sono i primi valvolari, i primi tre canali, i primi CD, capito, quelli, e poi ti valgono anche un po' di soldi, li prendi, Barbiero. Sì, già lo so, già lo so, già me ricordo le valutazioni, poi avevo un amico in continente che era un collezionista, quindi ogni tanto mi aggiornava delle cose, perciò già lo so. E figurati tu da che cosa vale, l'ultimo che ho visto era $550, poi ne ho visto uno a $650, c'è le mani in chiavi, non ti preoccupare, ogni tanto lo accendo, non c'è manco antenna attaccata perché non le voglio usare baracchini, uso solo il Galaxy ogni tanto così perché è più completo, però preferisco usare questi, sto qua. Va bene, avanti Robert. Guarda, se tu mi buschi, c'era chi è che c'aveva il tram, quel ricevitore tram, quello enorme. Se uno vuol fare scambio mi dà il tram e io ti do quello. Quello c'era a volte il tram, perché ce ne ha tre serie. C'è la prima, la seconda e la terza serie, ma anche Marco ce l'ha il tram. C'è anche Marco, quello è, con quello potrei fare scambio. Ma lo sai ante mano, mamma mia, ce ne vuole poco di posto che. Assolutamente, io infatti il dati ce l'ho messo in angolo perché è bello anche esteticamente, c'è solo in stazione, c'è solo il dati e il Galaxy, il resto sono tutti conservati a parte quelli che ho dato, però alla fin fine devi avere molto posto, capito? Avevo deciso di non riempirmi la stanza di un sacco di cose, ho messo quelle essenziali che già ce ne sono abbastanza, ma comunque va bene così. Ok, avanti qua. Sì, quelle prendo io, Barbiero, sì, conto come si chiama, radioamatore Marco Scorpion, sì, lui ha bellissima radio, bellissima pinta, ho visto che ne ha una collezione finita, perché a Babbo gli ha mandato nel mondo, perché a farle vedere Babbo c'ha anche il Contact 19, che è rarissimo da trovare, e infatti a me mi manca la collezione, perché c'ho tutti i modelli del Contact, tranne il Contact 19, lui quello ce l'ha, è fortunato ad averlo, ma c'ha tantissime radio, c'ha anche le Sì, sì, ma in America poi stanno riapprezzando questi apparati qua. Sì, questo è in America ce ne sono tanti, ma hanno un canale, io poi capisco, perché volevamo anche comprare il, come si chiama, il cantantina, lo soffermavo, le figlie cantantina, quello vicino al canale, che è il primo di cui chiamo mio padre, siccome ci vediamo là con quelli manuali, che sono queste condizioni molto, molto belle, perché stanno gli anni suoi, e gli anni appena quasi, il cantantina c'è la prima versione, poi ce ne ha due della seconda versione, e il 3 c'ha proprio le funzionanti, perché c'è stato regalato, e però vogliamo comprare almeno la prima versione, quello che ha remake, capito, che non è una votazione elettronica, tutto per averlo, e ogni tanto vanno a ruba, praticamente ne ho visto uno anche su eBay, ma non spediscono per l'Italia, capito, perché non lo posso acquistare, e anche se l'avrei preso subito, perché è una città piccola, e quindi banchero. Sì, sì, sì, no, ma veicolari no, ne ho due o tre io, il resto erano tutti in base, no, non mi piacciono i veicolari. Sì, io me lo ricordo il Catalina, non me ricordo che averlo avuto, ma negli anni che furono qualcosa del genere già l'ho avuto anche io. E vabbè, belle radio, però hanno gli anni sui, come anche questa, io ho tutta la serie del K di nuovo. Mi sono riempito di nuovo, c'ho 2430 fantastici, il 140, 757, GX2, il CAT System, adesso molto probabilmente sono in attesa se mi hanno anche il C80, così completo la collezione K di nuovo, me ne ho disfatto. L'unico che non prenderò mai più è un 440, per carità. Mi ha fatto spendere tanti di quei soldi quella radio, cazzo, allucinante. Vai, vabbè. Sì, vabbè, tu sei non è messo a posto, già lo sai, anche a me mi ha fatto problemi. Adesso fortunatamente è stato fatto quel lavoro lì. No, sto guardando qua questo 8193 sito, veri, rare, 40 canali comunque, non è 23 canali il mio pace, Claudio Muros. Sì, questo è vero, ma è bello lo stesso, non è che sono più quelli 23, sono sempre i primi, ma è bello che ha 40 canali, e lui è anche quello che abbiamo dato l'antonello di oggi, si chiama la scuda, e quella era una grandissima radio, è bellissima, la rifatto anche come radio, perché c'è una modulazione strepitosa, bellissima proprio, e se la trovo un'altra me la prendo, ero difficile a trovare per quelle, perché sono bravissime, non puoi capito come, per esempio, un veicolare che so io, questo Alfa SP23, che è capito se mi hanno regalato, quello che non ti dico la storia di che era, ma ne ho mai capito quello del posto, che poi sono un posto, era il Presidente della Repubblica, partiamo da tutto, guarda che poi ce l'abbiamo noi, perfettamente funzionante, e anche quelli sono rari da trovare, capito, e sono rari da trovare, quello gliel'aveva regalato un metà verde a Babbo, capito, era proprio di consiglia quello, cosa ti volevo dire, non pensi, anche 40 canali vanno bene, non ci sono problemi, capito, che non so se c'è il CQR incorporato, e sono bellissime radio, facciamo il 27, mi piace modulare, e poi capito, e poi quando mi prenderò la licenza di radioamatore, perché anche io voglio diventare come siete voi, capito, capito, voglio diventare come pure io, capito, però non subito, capito, studio, faccio un po' di cultura, studio 10 mesi, poi ci vedrà, capito, non penso che devo essere preparato, perché questo è questo per il esame, e poi si può parlare anche di apparati più nuovi, capito, sempre in bande amatoriali, ovviamente, e 27 entro sempre con il vintage, perché c'è una mia passione, e quindi Fabiero. Da qua, ho scelto un attimo di bianco, prendete la sabonetta patente, noi la sera a volte, vabbè, siamo un po' di giorni che ci stiamo dedicando qua nuovamente, però a volte ci andiamo in banda amatoriale con Roberto e Gianfranco a fare due chiacchiere. Diamo un colpo qui e un colpo là, dai, già va bene. Ok, bene ragazzi, dai, io sono rientrato, adesso la cena è pronta. Quindi vi risaluto, ciao Roberto, ciao Claudio, eventuali ascoltoni. Buon fine serata a tutti, ascolto il finale e poi chiudo definitivamente. Vai Roberto. Aspetta, una di 5 vai a chiudere, perché 101 Digital, te vai e compralo. 101 Digital, è quello che ho dato io a te. Certo. Ho avuto 101 Digital, quello lì, e poi ho avuto anche 101 ZD, 102, ne ho avuto tantissime, ma io ho le foto, quindi documentabile, no? Non è che dico cazzate, ogni radio facevo la foto, anche della sala radio, te l'ho fatta vedere, te avevo più roba prima che adesso, figurati. ma sono tutte radio che io ho usato, ma tutta la serie del 9, ho fatto il 920, 930, 940, 950, della serie 8 la stessa cosa, dall'820, dall'830, dall'840, 850, tutti, sia Tempo, Iaesio, Icom, tutti. Va bene, mi sembra di aver sentito anche Gianfranco, buonasera anche a lui, io sono in chiusura. Buonasera a tutti e buon fine questo, ciao. Sì, ho detto anche stasera Codine. Anche stasera? Codine di Cinghiale. No. Codine di Cinghiale domani, Cinghiale, Porcetto e Agnello, poi piedini di anguille con contorno di patate lesse. Quindi già va bene. Ok, buona cena, alle prossime. Riprendi Roberto. Ehi, a tu hai detto una bugia, Claudio, le foto non ce le hai più su. È vero, cazzo, male detto. Ce le hai tutte tu, guardatele bene. Guardatele una per una quelle foto che sono già incorniciate. Guardatele, guarda cosa, le radio che ho avuto, che sono tutte radio degli anni 80. Perché io sono arrivato nell'83 a Sassari e ho iniziato a mettere su chi più ne ha più ne metta. Guardatele bene, poi mi ci sei. Addirittura c'è anche la linea Drake. Io andavo in 27 anche con la linea Drake, lo usavo sia in HF sia in 27, ma non solo. Guardatele bene quelle foto, poi mi ci sei, ti sto raccontando balle. Qualcuna ce l'ho anche io, doppia, ma quelle proprio singole ce le hai tutte. Va bene, cambio nuovamente per Claudio, ascolto il finale e poi chiudo. Ciao, buona serata a tutti. Sì, campa, questo è il palmero, si prendo io, chiudo dall'ultimito, tu ne hai capito, e capito, e poi ciò che ti hai ammutte tutte, che te le sei provate tutte, tra i punto questa quella fortuna, perché ci sono dei primi dalla 27, per ripensare un po' meglio. Può essere Giulio, può essere mio padre, io qui chi siete voi, c'è un bravo dubbio, capito, e io c'è io, quello, vabbè, ma c'è 40, quindi... Più 20 anni di pirata. No, non era di 430. Pirata patentato. 40 secondi da già questo, va. E ci scaricavano i conversatori, come lo lasciamo in fermo, quando lasciano i tempi, davano tutti noi, quindi, vabbè, gli arrabbi anche per quello, e 430 l'abbiamo dato, perché non era al 100%, altrimenti me l'avrei tenuto quello, capito, perché era una bellissima radio, capito, quella su YouTube va molto bene, ho visto, e ne abbiamo tante, ne sono rimasti 757 della Caes, su YouTube, no, cazzato, infatti, con la mia sposa, i soldi di quella radio lì, e poi c'ho la mia somma, diciamo, quella FL50P, FL50, come si chiama, il ricevitore, insomma, c'ho il ricevitore, il trasmettitore separato, e devo la mia, della Crafter, c'ho la HP146, sono sempre con termo le covere, devo aver fatto, aspetterò a prendermi questa benedetta patente, io, perché voglio essere come tu, ripeto, e capito, non voglio essere inferiore agli altri amatori, voglio essere pure io, metterò tutta, capito, e che volevo dire, sì, saluto anche a Gianfranco, che ha presentato, buonasera a Gianfranco, cordialità che a te che ho sentito, che dire, Claudio, dai, che devi chiudere, ti auguro un buon pranzo, e ci sentiamo alle prossime, e una buona carica quando la fai, alle prossime, riprendi Gianfranco. Sì, grazie, Cla, adesso ti passo il cambio Gianfranco, sì, la linea della somma che aveva volata io, tuo padre. Mentre poi lui mi ha volato quella Alicraft e io mi avevo preso l'altro pezzo, dai. Va bene, ciao a tutti di nuovo, a te Gianfranco, buona serata, ciao. Ciao Cla, a domani, riprendi Roberto. Sì, Claudio, ci sentiamo, poi domani se si sistema quella situazione là, se c'è tempo, là ci sentiamo per provare quella roba, dai, ok, buon tutto e saluti in casa, vai chi tocca, Muros. Sì, questo è l'opposizione, per salutare, perché devo andare anch'io a fare carico batteria, mi sono trattenuto una mezz'ora in più perché dovevo attaccare dalle 8, però quando sai come quando parliamo qui di queste cose, di radio infinita, di queste cose che sono la mia passione, e possiamo parlare fino a domani, perché mi trattengo, sono chiacchierone, mi piacciono queste cose, mio padre mi ha influenzato, da quando ero piccolo, da quando modulava con il contatto, i 25 ero bene qua, e mi ha dottrinato bene queste cose, quindi guarda, sono anche un malato di queste robe, ma non mi mettete qua a parlare di questi argomenti, guarda, sono fino a domani mattina, e che dire, però il problema è che sono bene anche a te allora e auguri per il nuovo anno naturalmente. Riprendi roba. E naturalmente ricambio anche io gli auguri a Claudio e famiglia, a tuo babbo, tua mamma e tuo fratello. Buon tutto e sperando che sia un anno bellissimo e ricco come deve essere. E beh Gianfra, oggi ti sento un po' più muscolo del solito, cosa è successo? Stanco? Sì, abbastanza. Ho lavorato da presto su quel motore, ma mi sa che me lo tolgo. Lo tolgo e passo al Dolfit, tanto non me ne frega niente di vedere i balli libici o quelle cose lì. Mi bastano due satelliti, me li ho fatti tutti, tutti i satelliti ricevibili, me li sono tutti scandagliati, due palle che non ti dico. E no, stasera invece ho fatto molta radio. Ho fatto un paio di collegamenti, molto soddisfatto, con sei watt all'incirca, e sei watt in banda laterale, uno con l'Inghilterra e l'altro con la Germania, quindi sono più che soddisfatto di questo, di un giocattolino che c'è da. Ma su che balle? In 40, poi forse c'era qualcosa anche in 80, perché sentivo era pieno, quelle sono frequenze più notturne, e niente, quindi soddisfatto in piazza K. Bello, bello. Corretti? Anche infatti vado. Brecca! Vado via perché sono stanco, domani devo fare alcune cose. Registrato. E poi vediamo cosa ci dice il nuovo anno. Ciao Robè, buona serata e buona serata anche agli eventuali ascoltatori. Ciao. Scusate, ma tu. Sì, anche io stavo per chiudere, mi hai anticipato tu e ci sono appresso. Oggi dalle 6:30 sono in radio, stavo provando anche altre cose. Ok, ti saluto, ti faccio gli auguri, vabbè, eventualmente ci possiamo fare domani direttamente il primo. È rientrato anche Antonio, mi dispiace tanto per te che io adesso vado a mangiarmi qualcosa, sono anche un po' stanco. Dai, ci risentiamo alle prossime. Saluto anche qua gli eventuali amici in ascolto, SWL. Quelli più da parte mia, vai Antonio, e così mi saluti anche tu a Gianfranco. Salutone a te, a Gianfranco, a tutti, non c'è altro nessuno. Vi auguro il saluto a tutti. Ciao a tutti, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ciao a tutti, se non ci sentiamo a Guroni, buona serata. Ciao ciao ciao ciao ciao. Chi c'è? Io stavo controllando le stazionarie. Claro. Come? Ho acceso adesso, trascina e tutto. Niente, anch'io stavo un po' girando a vedere se c'era qualcuno, provando anch'io. Stazionarie lo stesso, sempre non sale nemmeno a uno, si muove appena e boh. E come questa? No, stavo guardando, certo che c'è umidità adesso, vedere se è come la Mantova. Perché la Mantova quando c'è umidità da 1.1 vanno a 1.2. Mentre queste rimangono stabili, capito? No, non cambiano. Ho capito, sì, umidità ce n'è parecchia, già ci sarà nebbia pure. Mia moglie. Davanti vabbè, l'altro tipo di antenna, questa è più stabile. Sì, già è questa, praticamente questa l'ho piazzata e che poi leggendo l'istruzione avevo letto di quell'avvolgimento da fare eccetera, però mi sa in gabudut come mi hai detto tu, però voglio sollevarla ancora più in alto, solo che praticamente quando ho inserito il tubo telescopico su quello che ho messo c'era una specie di blocco, capito? Quindi non mi scende più di tanto, però se riesco col cacciavite a portarlo fuori il blocco, capito? Così faccio scendere il tubo, così mi si abbassa e così lei la porto più in alto e poi sollevo tutto il tubo e lo blocco con i bulloni, capito? Sì, te l'ho detto, c'è bisogno di una mano, dimmi, non c'è problema. Non c'è problema, Carlo. Così elimini quel ballon che hai fatto, non serve a niente, messo lì, e allunghi leggermente più il cavo. E il resto lo lasci per terra, senza arrotolarlo, e così in bando lo lasci per terra, senza arrotolare, come c'ho io. Perché se le fai delle spirali, delle cose, lo arrotoli, diventa... ti crea problemi, capito? Sì, sì, ma sono solo 3,5 metri quello avvolto. Quindi se mi porto su di un altro 1,5 metri, mi rimangono 2 metri di capo, solamente ne lascio un altro 1 metro giù penzoloni e l'altro me lo tiro da giù, capito? E quindi il cavo io non sto neanche a tagliarlo, capito? Lo lascio così e elimino tutto quell'avvolgimento lì. Esatto, esatto. No, perché non va bene lì. Di solito questi metrizzatori, quei balloni si fanno proprio... però c'è il connettore del PL, hai fatto troppo, non serve a niente, è come che non ci sia, quindi per me lo puoi anche togliere, non serve a niente. Sì, ma tu tanto non ne avevi mai fatto neanche tu di quella roba? No, io l'ho messo diretto, ho fatto la misura giusta del cavo, ce ne ho 1 metro qualcosa in più, è 1 metro, forse 1,20 metri in più ho lasciato, che magari sai, quando spesti una radio, una cosa, non è, è meglio che non sia troppo preciso, e basta, e boh, ho lasciato così. Più che altro, diciamo che ho avuto un po' di fretta a metterla, perché volevo che non passasse molto tempo da quando toglievo l'altra, così sai, quando sei in condominio, se riesci a far tutto in sordina non se ne accorge nessuno, non è che mi dicono niente, però tolto quella e la vecchia e messa la nuova antenna, nessuno si è accorto di niente, nessuno mi ha detto niente, quando adesso fa una bella giornata che è una mattinata eccetera, salgo e sistemo tutto, poi già ti faccio sapere. E comunque se la sollevo ancora, perché la posso sollevare almeno di 1,5 metri, capito? Tanto mollo appena, capito, i bulloni, piano piano la tiro su, il difficile era montarla e piazzarla, capito? Poi però già ci sono riuscito tranquillamente, senza nessuna fatica. No, non è facilissimo da montare, non è neanche molto pesante, quindi già va bene, non ci sono problemi, figurati. Ultima per la truffa, segnale, hai un segnalone, no? Non ce n'è, 9+40 pieno, è veramente molto molto forte, con l'altra è di 35, 32, 35, questa sei proprio 40, 40 pieno, ottimo segnale. E un po', se la vuoi tirare su, sicuramente guadagni ancora di più, se poi la vuoi lasciare così, io te l'ho detto, io adesso non faccio niente. Probabilmente, perché ci sono tre o quattro giorni di bel tempo, veramente molto bello, quasi primaverile, però altre cose da fare, priorità sul giardino, su altri lavoretti che ho iniziato e così me li finisco. Poi se avanza il tempo, anch'io magari mi dedico un po' alle antenne, se no aspetto il periodo estivo. Beh sì, a quel punto a primavera ed estate fanno settimane piene di bel tempo e ha voglia di fare modifiche o sistemazioni migliori, capito? Certo, adesso le poche giornate che hai a disposizione di tempo buono, ovviamente tu che c'hai il giardino lì, te lo sistemi bene pian piano e vedrai. Cioè, tu dove abiti tu puoi un'ottima posizione, lì sei bello in alto, lì sei proprio in una posizione bellissima. Non so che cosa da fare, Carlo, l'hai visto, non è che per carità, però un sacco di piccolette che devo finire, devo pavimentarmi su un pezzettino di terrazzo e ancora con la boiata, con la cosa impermeabilizzata, insomma, dovevo mettere a farlo, perché poi non c'è bisogno manco di tagliare i mattoni, nulla, la misura sono tutti mattoni interi, quindi in questi giorni e non ho fatto niente. Se però fa tempo bello mi metto, mi finisco queste stronzate, qualche canale ancora della coppia urbana devo mettere per recuperare la coppia urbana dal giardino, in modo che rimanga sempre bello asciutto, capito? Però scusa, c'è la mia moglie che parla col cane, quindi non ho capito niente. Non ti preoccupare, classe, hai da chiacchierare in casa, chiudi pure, io ero così giusto provando. No, ho scelto qua un attimino, giusto rilassarmi, no? C'è la mia moglie giocando col cane, qua vicino alla porta, non capisco, non ci dico. Che cagnolino c'hai, Fla? Non è uscito quando ci è venuto tu, no, forse era dentro, un bulldog inglese. Bello, bello, bello. Oggi ne ho visto uno di quelli piccoletti, di bulldog piccolino, da 2 mesi ce l'aveva una signora dentro il trasportino, portandoselo a Roma. E sicuramente roba che ha preso in qualche canile, qua, in qualche allevamento, perché ne sto vedendo un sacco in giro. Noi l'abbiamo comprato, sì, qua in Sardegna, però non a Sassari, perché non ce n'è canili dove allevano questi bulldog inglesi, francesi, questi carlino, questi somolosi così piccoli. Il mio è grosso, il mio è un fuori Italia, è un cane da 26 kg, 27, però bello massiccio, rimane un pochino più alto rispetto a quelli normali, perché è un fuori Italia, ma è, guarda, una cosa allucinante, un coccolone. L'unica cosa che rompe le balle quando entri nel cancello, viene e ti mosca i piedi, ti abbaia e ti mosca i piedi. Già sono belli, io li ho sempre avuti i cani quando abitavo a Bonorra, non uno, ne avevamo 3 o 4, mio padre faceva il veterinario, quindi ogni tanto ne portava qualcuno nuovo a casa, ne ho avuto di tutti i tipi. Già sono belli, io me lo sto godendo adesso la verità al cane, perché quando ero in condominio poco me lo godevo, era sempre dentro casa, stava molto nel poggiolo, soprattutto quando c'era caldo, mi piace molto il sole, lo portavo in giro anche mia figlia, però adesso qua è indipendente, lui sta molto fuori, sta insomma per i fatti suoi, capito? C'ha il posto adesso per veramente per vivere, secondo me non si può tenere un cane, dai. Almeno hai reso felice anche il cagnolino, che non guasta, perché lì hai lo spazio, e anche se vuoi uscire a passeggiare lì ce n'è di posti per andare. Di fronte dove abiti tu lì c'è anche un sentiero bello, sì, ma hai visto dove ti ho fatto girare la strada sino a scendere giù dove c'è il cantiere? Quello è tutto mio, questo è il terreno che combacia col muro di recinzione, quello è tutto mio, quindi ne ho di spazio da passeggiare, da portare a lui, ma d'estate lo porto giù, lo mollo, corre alla grande, no? Non c'è problema. Qua è un po' più piccolo il giardino, però si muove abbastanza bene, dai, rispetto a come era prima già va bene. Credo, lì poi all'aria aperta, lì ci starà bene anche a primavera, anche d'estate, perché lì trova anche il fresco, perché lì c'ha più spazio, non è come tenerli in appartamento che sono sempre dentro casa e soffrono gli animali, capito? I cani soprattutto, che hanno bisogno di muoversi, capito? Più si muovono e più stanno bene i cani. Sì, ma infatti, no, ma lui già si muove bene, no? Non c'è problema. Gioca, fa, si muove, sta molto sdraiato d'estate al caldo nel giardino, poi magari se c'è molto caldo se ne va sotto la veranda, hai visto la veranda quanto è grande, lì c'è, siamo noi la sera, c'è il salottino, tre cose, adesso piegato tutto, no, sta bene, diciamo che sta bene, dai. Va bene lui, stiamo meglio noi, molto molto meglio. Poi abitando così in casa indipendente il cane ti fa anche compagnia, insomma, se te ne esci fuori un attimino ti siedi al fresco, capito? Lui sta lì e non sei mai solo, capito, quando c'hai il cagnolino. Lui, come io sto fuori d'estate che cediamo lì nel salottino, lui sta sempre con il gatto lì, se ne va un po' al sole, poi quando c'ha un po' di caldo allora si mette vicino a noi al fresco, capito? Ia, bene meda. Io adesso mi sa che mi sparo qualche film, perché mi ero fatto qualche mese fa l'abbonamento su Netflix, capito? Perché tanto nella TV normale non vedi quasi niente, e là ti selezioni un film ogni tanto, vai, film d'azione, film drammatici, di tutti i tipi. Mi sa che mi faccio un filmetto e poi magari arriverò massimo 11:30 per la fine crolli. Ehi, che sono io. Guarda, anche noi ci abbiamo Netflix. Stavamo guardando l'altro giorno con mia figlia quello La casa di carta. Se lo vuoi vedere è molto bella, molto molto bella, una bella serie. Poi mi ho visto quello di Maradona, la vita, no? Se non mi ricordo come è intitolato. Ma comunque ce ne sono parecchi molto molto belli a Netflix. Va bene, dai Carle, allora ci aggiorniamo, se hai bisogno di qualcosa chiamami, ok? Non esitare a niente, un colpo di telefono, qua ho bisogno di una mano, vengo e ti do una mano io, ok? Grazie mille, Cla, più che altro mi servirà qualche consiglio, già ti chiamo comunque, al bisogno ti chiamo e ti faccio sapere. Sì, sì, Netflix è buono, l'ho visto anch'io quello, La casa di carta, della rapina della Banca Centrale Spagnola, bello, avevo visto anche la serie 1, 2, mi sa che questa era la terza o la quarta, insomma, me la sono sparata tutta assieme la settimana scorsa. Bene, Meda, Cla, ci sentiamo alle prossimine, buonanotte, buon tutto. Ciao Carlo, buonanotte anche a te, senti, domani magari ci facciamo gli auguri di fine anno, ok? Non te li faccio adesso perché porta sfiga. Ripeto, qualsiasi cosa hai bisogno, a tua disposizione. Ciao, un abbraccio, a presto, buona serata e buon tutto, ciao. Ciao, buonanotte.